poi i classici rumori delle macchine che vanno avanti e indietro, le immondizie alle 6:30 al mattino. Questa nuova immondizia 6:30 al mattino. Sei e mezzo, il camion delle immondizie. Il camion delle immondizie, primo che passa il mercoledì e il lunedì comincia alle 6:30 la mattina. Da quanto tempo viveva qui lei? Da sempre. Da sempre. Da sempre. E come sono cambiati i suoni nel tempo? Una volta, adesso spiegare ai bimbi adesso. Una volta non c'erano suoni, com'era? Il mattino. Com'era? Il mattino era un silenzio impressionante. Io mi ricordo che c'erano due macchine in tutto il paese. Due macchine? Due macchine in tutto il paese. Durante allora, il giorno? Durante che... il giorno, durante il giorno si andava a scuola, si veniva a casa a piedi tutti quanti da scuola. Su dalla scuola là dove siete voi, dovevamo venire qui in paese. E giocavamo sulla strada a guardie ladre in pratica, cioè che non passavano macchine, non passava niente. Andavamo giù sulla slitta, partivamo su in Casteldante, venivamo giù da tutta la strada, attraversavamo giù tutta la strada lì, uscivamo fuori, c'era tutta campagna sotto, anche lo stradone saltavamo via. In piazza, giocavamo in piazza qui, alle palline, facevamo, non so se si ricorda, il... con le palline a fare i castelletti, con le biglie, facevamo le biglie di traverso della piazza e giocavamo lì e nessuno ci diceva niente. E ci dico una cosa, i suoni più belli di quel periodo lì? I suoni più belli erano i ragazzi, il gioco di ragazzi.